24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la riunione dell'Ecofin a Bruxelles, che ha ufficialmente designato il governatore di Banca Italia Mario Draghi quale prossimo presidente della Banca Centrale Europea. All'Ecofin si è parlato anche di riforma della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio e di credit default swap. Restano intanto in Europa gli strascichi dello scandalo Strauss-Kahn. Oggi vi parleremo anche di mercato dell'auto e vi racconteremo l'impresa di un ciclista britannico al Giro d'Italia. With the name of Mario Draghi. Come state ascoltando nelle parole del ministro dell'economia ungherese Gyorgy Matolcsy, anche l'Ecofin ha ratificato la nomina di Mario Draghi alla presidenza della BCE. Dopo l'endorsement dell'Eurogruppo lunedì sera, i 27 ministri delle finanze comunitarie hanno accettato la designazione dell'attuale governatore di Banca Italia. Ora la nomina ufficiale spetta ai leader europei il prossimo 24 giugno. E il ministro italiano dell'economia Giulio Tremonti ha sollevato dure critiche in sede Ecofin sulla direttiva per la tassazione dei redditi da risparmio, minacciando un ricorso italiano alla Corte di Giustizia. Roma accusa gli altri paesi di non volersi impegnare a introdurre sanzioni per gli stati e le banche che violano la normativa, permettendo così il deposito di capitali nei paradisi fiscali, in primis la Svizzera. I ministri finanziari hanno raggiunto un'intesa di massima sulla stretta relativa alle vendite allo scoperto e sui credit default swap. Infine, strascico Strauss-Kahn all'Ecofin con le ministre dell'economia spagnola e austriaca, infuriate e decise nel chiederne le dimissioni. Alla guida dell'FMI dovrebbe restare un europeo, così appunto il presidente di turno dell'Ecofin, il ministro delle finanze ungherese Gyorgy Matolcsy. La probabile uscita di scena di DSK getta ombre pesanti sull'eurozona, come spiega Carlo Bastasini, economista e giornalista. Strauss-Kahn era certamente il riferimento pro-europeo all'interno del Fondo Monetario, ha giocato una parte attiva durante la crisi. L'esempio più evidente è quello del gennaio 2010, quando Strauss-Kahn offrì l'aiuto del Fondo Monetario, quando ancora l'Unione Europea non era del tutto convinta, disse: salveremo noi la Grecia se la Grecia chiederà aiuto. Fu un passo importante. Successivamente lui, assieme a Trichet, andarono a Berlino a convincere i gruppi parlamentari del Bundestag ad aiutare la Grecia, e lui stesso fu importante nel convincere Angela Merkel nel contribuire per dimensione al gigantesco pacchetto finanziario di aiuti approvato nel maggio 2010. Diciamo questo, il Fondo Monetario dall'inizio della crisi, in particolare quando in Europa, anche se all'esterno dell'area euro allora, in Ungheria, in Lettonia, si erano aperti i primi casi, il Fondo Monetario era l'unico istituto internazionale a disporre delle capacità tecniche per intervenire nel salvataggio di paesi. Fu allora che si capì che la Commissione Europea non era tecnicamente in grado di salvare quei paesi. Ecco, diciamo, il ruolo del Fondo Monetario è stato importante. Il fatto che ci fosse un europeista, o perlomeno un personaggio di spicco nel proscenio della politica europea alla direzione generale, certamente influente. Continuiamo a parlare di economia ora con la borsa. Il timore per la delicata situazione finanziaria della Grecia e i dati macro USA risultati inferiori alle attese hanno finito per incoraggiare le vendite. Il FTSE MIB ha così perso l'1,14%. Sono andati giù i titoli delle banche, fatta eccezione per quelli del Banco Popolare, saliti dello 0,4%. Generali ha registrato un progresso dello 0,13%, beneficiando delle ipotesi che la banca russa VTB sia interessata a entrare nel capitale. Intanto la compagnia triestina ha confermato trattative in corso con l'istituto russo per intavolare una collaborazione nel settore assicurativo. Fiat SPA ha perso il 2,7%, risentendo del fatto che per l'ennesimo mese consecutivo il lingotto ha fatto peggio del mercato europeo, accusando una flessione delle immatricolazioni del 7,8% contro quella del mercato del 3,8%. Sono ad ogni modo andate male anche le Fiat Industrial, meno 2,59%. Parmalat infine ha chiuso ancora una volta sopra il prezzo dell'OPA lanciata dall'Actalis a 2,6 euro. Sul finale i titoli si sono attestati a 2,61 euro. Il consiglio di amministrazione della società ha giudicato non congruo il prezzo offerto dal gruppo francese. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore. Ancora un mese in rosso per il mercato dell'auto in Europa. Ad aprile nei 27 paesi comunitari le nuove immatricolazioni, secondo i dati diffusi dalla CEA, hanno subito una flessione del 3,8% rispetto ad aprile 2010. Andrea Malan. Fiat ha perso in termini percentuali il doppio del mercato, cioè il 7,7% nel mese di aprile, un calo che effetto di due fattori. Innanzitutto il mercato italiano continua ad andare male, peggio degli altri, questo lo sapevamo già. Anche sul mercato italiano Fiat va peggio dei concorrenti, ma anche tutti gli altri mercati europei, che pure non vanno bene, con un meno 4 nel mese. Il gruppo torinese ha perso il 6,8%, frutto di una gamma di modelli abbastanza invecchiata con poche novità. L'unica di rilievo è la Giulietta Alfa Romeo lanciata l'anno scorso. Non a caso il marchio Alfa Romeo è di gran lunga quello che va meglio per il gruppo Fiat ed è riuscito questo mese a riportare la quota in Europa all'1,1% dallo 0,7% dell'anno precedente. Si chiama Tebera il primo progetto di cooperazione internazionale promosso e finanziato dall'Unione Europea, che vede l'Italia capofila di un programma medico-scientifico e sanitario nel bacino del Mediterraneo in ambito trapiantologico. Nicoletta Carbone ne ha parlato con il professor Franco Filipponi, direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera universitaria Pisano. Sicuramente sappiamo tutti che la carenza di organi è diffusa in tutto il mondo, quindi è un dato che dobbiamo prendere come assunto. Nello stesso tempo noi dobbiamo partire dal presupposto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ovviamente ha dato dei livelli di contenimento, tanto da dire ogni paese deve riuscire a fare con le proprie risorse, quindi deve sviluppare resi di donazione, prevalentemente di morte cerebrale, ma in alcune situazioni laddove necessario anche da vivente. Questo è chiaramente lo stimolo base per far sì che i paesi del secondo livello sanitario, come l'Egitto, come il Marocco, ovviamente tutti richiedenti di programmi che siano ovviamente in linea per il trattamento delle malattie epatiche, ma anche di resi di trapianto, evidentemente possano essere, grazie al supporto che a questo punto l'Europa e l'Italia come capofila in questo momento potranno dare, per creare in prima battuta delle reti di morte cerebrale, così come le abbiamo in Europa, perché chiaramente tutte le rianimazioni del nostro paese sono in rete per avere il procurement di donazione, quindi ovviamente avere una trasparenza nell'allocazione delle liste, avere una trasparenza per quanto riguarda ovviamente tutti i percorsi di donazione di trapianto, ma nello stesso tempo sviluppare con loro delle reti che chiaramente possano portare alla donazione di organi anche in questi paesi, che oramai si stanno tutti evolvendo grazie a delle normative inerenti alla morte cerebrale. Gli spettacoli a Cannes: ha vinto il Grand Prix speciale della giuria e quello per la miglior attrice con il suo L'uomo senza passato nel 2002. Ieri il finlandese Aki Kaurismäki, in corso per la Palma d'Oro, ha fatto il pieno di applausi e consensi. Sentiamo. Tanti, tanti applausi. Ha conquistato la critica a Le Havre il film del sempre pittoresco Aki Kaurismäki. È la storia di Marcel, ex scrittore decaduto, che per vivere si adatta a fare lustrascarpe. Quando incontra Idrissa, ragazzino clandestino appena fuggito da un container, lo accoglie così nella sua modesta casa. Il problema dell'immigrazione è enorme, più di quello che si riesca a spiegare in un film, ha detto il regista in conferenza stampa, ma mi sembrava un tema importante da affrontare. Il problema non si risolve lasciando gli immigrati in Grecia, Italia e Spagna in qualche campo, ma la politica non vuole affrontare la questione. E fedele alla sua immagine di inguaribile burlone, confessa: questo film poteva essere girato in qualsiasi paese europeo, eccetto la Svezia e la Finlandia. Perché nobody is in such a despair that they would go there. Nessuno è così disperato da voler venire in posti del genere. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sport: il britannico Mark Cavendish ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia da Termoli a Teramo di 159 km, battendo in volata Alessandro Petacchi. Lo spagnolo Alberto Contador ha conservato la maglia rossa. Sentiamo Cavendish. Sono felice, squadra incredibile oggi. Ho fatto tutta tappa davanti al gruppo. Sì, questo è perfetto per la finale. Io so... è meglio dietro lui, perché quando vado dietro è possibile passare quando voglio. Oggi undicesima tappa del Giro da Tortoreto a Castelfilardo, 144 chilometri. E per il calcio si assegna stasera il primo trofeo europeo stagionale. A Dublino nella finale di Europa League si affrontano Porto e Braga in un derby tutto portoghese. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.